come mai il mondo è fatto uno straccio, la gente muore per una squadra di calcio, i guardiani sulla sedia a far sbadigli, mentre le mamme in casa uccidono i propri figli. Da piccolo giocavo per far passare i giorni, ora questi giocano a far cadere le torri. E c'è chi vorrebbe una vita pacifica, io vorrei solo un temporale in Africa. Mi sembra assurdo ammazzare lo scemo di turno, se hai ragione devi dire scusa se disturbo. Non voglio passare i giorni peggiori, vorrei solo che le bombe si trasformassero in fiori. Vorrei che tutti quanti diventassero dei civili, sulla nostra testa ora volano missili. I leader comandano il territorio dove domini, con che coraggio li chiamano uomini. E no, non puoi chiedere la pietà, abbiamo dei soldati che camminano per le città. Devi avere paura, solo a dire fatti più là, rapper di oggi fanno badabum, cia cia. Voglio la verità, ehi, sei è il mondo che non va, dimmi se è normale, se cosa vuoi il mondo continua a girare. Voglio la verità, ehi, sei è il mondo che non va, dimmi se è normale, se cosa vuoi il mondo continua a girare. Mostrami il tuo coltello nella fibbia, se mi minacci io ti aspetto all'uscita. E qui nessuno sa più cos'è la passione, si uccidono persone a causa dell'amore. E no, non metto tra le gambe la mia coda, visto che lo stupro ormai va di moda. La gente è menefreghista, non è più attenta, può morire in pubblico e la gente si sta ferma. Qualcosa accadrà, si sa, fra muoiono persone innocenti. Mo che fossimo GTA, la monga pazzi, latticini e la viaria, ho il testa altrove perché sono saltato in aria. Tutto ci sta schiacciando con la sua sola, dato che il mio spaccio è nei bagni della scuola. Scrivo righe pesanti, mica messa a caso, ma com'è che le tue righe finiscono dentro al naso? Italia, bel paese, bella terra, un premier ci fa fare figure di merda. E di questo mondo non sono io il king, ma come Martin Luther, I have a dream. Del mio sogno puoi avvertire già il sintomo, il mio sogno è di svegliarci da questo incubo. Voglio la verità, ehi, sei è il mondo che non va, dimmi se è normale, se cosa vuoi il mondo continua a girare. Voglio la verità, ehi, sei è il mondo che non va, dimmi se è normale, se cosa vuoi il mondo continua a girare. Cosa fai? Mi minacci con la pistola, dici che se non ti pago ti spari un colpo in gola. Vieni con la pistola e con aria da migliore, tu pistola mio ti picchio, quindi sono il tuo caricatore. Può andare anche in galera come un perdente, ma non darai indietro i bimbi morti ingiustamente. Ci spacchiamo la schiena per avere dell'oro, ma qua la gente muore anche sul posto di lavoro. Tutto aumentato, anche i libri per lo studio, tra poco la benzina la pagheremo a mutuo. In pubblicità un veliero circola per strada e poi si lamentano dei pirati della strada. Pubblicità, non ne capiamo una briciola, le nostre urla sono coperte dal gatto virgola. E a scuola, beh, niente di male, durante la lezione il mio prof legge il giornale. Professori stufati che insegnano ancora, non si può morire in un posto sicuro come la scuola. Sono magro perché sono in forma, pensiamo al re e muoviamo le corna e preghiamo Dio, io lo faccio in un testi pop. Mi ascolta perché sta pompando musica nelle pod. La verità, ehi, sei il mondo che non va, fra. La verità, oh, è il mondo che non va, fra. Voglio la verità, ehi, sei è il mondo che non va, dimmi se è normale, se cosa vuoi il mondo continua a girare. Voglio la verità, ehi, sei è il mondo che non va, dimmi se è normale, se cosa vuoi il mondo continua a girare.